24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Angelino Alfano, 46 anni, siciliano, sposato con due figli, laurea in giurisprudenza, avvocato dall'aprile 2013 e ministro dell'interno nel governo Letta prima, Renzi poi, enfant prodigio della politica italiana, a 25 anni presidente del gruppo di Forza Italia alla regione Sicilia. Nel 2008, nel quarto governo Berlusconi, diventa il più giovane guardia Sicilia della storia repubblicana, primo e unico segretario nazionale del Popolo della Libertà e promotore della scissione della PDL e lancio del nuovo centrodestra di cui viene eletto presidente. Del referendum costituzionale dice: chi vota no lo fa solo per far cadere il governo, ma non cadrà. Renzi intanto continua sul se perdo me ne vado, e Mattarella dice: no, sarò io l'arbitro dopo il referendum. Allora, ministro Alfano, decide tutto Mattarella dopo il referendum? La Costituzione prevede solo due modi per mandare a casa un governo, perché cada un governo. O si dimette o le dimissioni del Presidente o la sfiducia del Parlamento. Perfetto. La Bene. Sfiducia non credo che ci sarà e le dimissioni gliele sconsiglio. Ecco, Renzi però sembra determinato invece a lasciare il governo se vince no. Lei non ci crede? Io credo a quello che dice il Presidente del Consiglio. Se vorrà farlo lo farà con determinazione, darà le motivazioni. Noi siamo una forza politica autonoma e valuteremo D'accordo. Dal suo gesto come comportarsi. Comunque lui dice con chiarezza: non sono disponibile a galleggiare. Nessuno può impedirglielo, no. Ma nessuno è disponibile a galleggiare, perché questi tre anni sono stati sulla cresta dell'onda e non a galleggiare sul pelo dell'acqua. Senta che Renzi pensa che Renzi abbia fatto un errore fatale a personalizzare il referendum. Lui ha personalizzato il primo giorno, i suoi avversari i successivi 500. Ma lei ha provato a fermarlo all'inizio? Gli ho detto che dissentivo, ma poi gli avversari ne hanno approfittato e hanno personalizzato contro di lui per i 500 giorni successivi, fregandosene del merito della riforma, certo, e puntando solo a far cadere il governo. Ma è un problema di carattere quello di Renzi, oppure secondo lei è un calcolo politico? Ma le cose si mescolano, sì, come sempre in tutti noi, e poi è meglio avere a che fare con persone dal carattere forte e duro piuttosto che con persone senza carattere. Senta, ministro Alfano, siamo a 4 giorni dal voto, l'attenzione è altissima nel paese e sui mercati. Ha paura per lo svolgimento del referendum? No, se perché? Si riferisce all'ordine democratico non ho assolutamente paura, lo dico da ministro dell'interno, certo. Il nostro è un grande paese e noi assicureremo la regolarità e la serenità del voto. Ma esclude la possibilità di brogli? Certamente, noi abbiamo una grande tradizione democratica. No, glielo chiedo perché Violante ha evocato un clima da referendum da monarchia repubblica, esagera insomma. Io non so a cosa si riferisca di preciso, no, là ci sono, però stati problemi. Ancora una volta noi tifiamo per la Repubblica Italiana, che sarà migliore se avrà regole più certe e più veloci come quelle previste nella nostra riforma. Senta, ministro Alfano, lei come ministro dell'Interno ha il polso del paese più degli altri. Teme scontri e agitazioni oppure no? È un paese che in questo momento ha un grande scontro dal punto di vista dell'asprezza verbale, ma in cui l'ordine pubblico sta funzionando alla grande. Ma il risultato secondo lei dipenderà dall'affluenza? Anche, però io credo che in questo caso... Che previsioni fate ma sull'affluenza? Non c'è una previsione ministeriale ovviamente, no, ma la media dei sondaggisti la quota tra il 50 e il 60, intorno al 54, 55, 56. Senta, beh, i sondaggisti hanno dimostrato di non prendersi. Infatti io ho voluto immediatamente specificare che lo dicono loro. Senta, 3 anni di governo, in cosa l'hanno colpito di più in positivo? Siamo riusciti a mettere il segno più davanti il PIL, quando siamo arrivati c'era il segno meno, e a porre di fronte agli italiani una importante riforma costituzionale che può sbloccare il paese. Senta, in negativo che cosa l'ha colpito? Il fatto che ci sia stato un violento accanimento e che persone che sostenevano le cose che noi abbiamo fatto negli anni precedenti ora le neghino solo per fare male al governo. Sì. Dalla sì. riforma costituzionale una serie di provvedimenti economici come l'eliminazione dell'articolo 18. Senta cosa mi ha detto Renzi parlando di se stesso. Il suo peggior difetto qual è? Talvolta troppo cattivo? E come un lo po' combatte? Arrogante. E talvolta anche impulsivo, se no non l'avrei risposto così. È vero che si è accorto che è cattivo, arrogante e impulsivo? No, lui credo ami definirsi così ed è questo uno sfoggio di vanità e credo sia un vezzo suo, poi lo è molto meno tutte e tre le cose di quel che lui stesso dica di essere. E lei per vanità che sfoggio fa? Come si definirebbe? Di determinazione gentile, so essere molto determinato e al tempo stesso in un involucro di gentilezza esprimere la mia determinazione. Senta, si dice che lei stava tentando di rientrare nel centrodestra con Parisi, ma che è andata male, è vero? Ma è una imbecillità cosmica. Senta, comunque Berlusconi ha dato una legnata anche a Parisi, fuori un altro, la sua abitudine? ma non concepisce altri che se stesso, e quindi io mi viene un po' da sorridere, però avevo detto a Stefano Parisi, e l'avevo detto pubblicamente, è ai sedicesimi di finale, faremo i conti con lui se lo faranno arrivare in finale, e mi pare che si sia fermato ai sedicesimi, però adesso io, ai sedicesimi, però io adesso gli faccio i migliori auguri e in bocca al lupo per la nuova avventura che lo attende. Senta, ma lei dopo tanto tempo ha capito cos'era il quid che secondo Berlusconi le mancava per essere suo erede dopo averlo scelto? Io sono ancora qui, ho fondato un partito, ho preso 1.200.000 voti, sono un'espressione delle istituzioni repubblicane, e il problema del quid non ce l'ho. Credo invece che Berlusconi abbia un enorme problema di quorum. Senta però, per la verità, neanche lei ha scherzato con Berlusconi. Senta qui cosa diceva. Perché Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Lo ridirebbe? Eh sì, tant'è che poi li ha mollati e un po' lo hanno mollato, però al netto di tutto aveva 13 milioni di voti col PDL, oggi ha 3 milioni di voti con Forza Italia, vuol dire che 10 milioni si sono allontanati da lui sentendosi traditi da lui. Senta, ma lei, se mai ci saranno, parteciperà alla primaria del centrodestra? Io non credo che il centrodestra si possa chiamare tale se contiene un'estrema destra formata dai lepenisti, e cioè da Salvini e Meloni. Ma quindi il centrodestra tecnicamente non esiste più nel momento in cui va in mano all'estrema destra di Salvini. Ma se Salvini attacca nello stesso giorno il Papa e il Presidente della Repubblica, ce l'ha contro il Papa in materia di dottrina e di fede, contro il Presidente della Repubblica, contro l'Europa, contro l'euro, contro niente gli immigrati, primarie, contro tutti. Primarie. Ma non è una qualcosa. Guardi, le primarie sono il metodo che usano Salvini e Meloni per fregare Berlusconi. E la richiesta di legge proporzionale è il metodo che usa Berlusconi per fregare Salvini e Meloni. Sono si fregano a questo punto. Tutti, insomma. E alla fine intanto, fregano quelli che credevano in un'area moderata. Intanto Bossi ha liquidato Salvini, considerandolo senza speranza come leader. Ha ragione, allora. Io do ragione a Bossi, lo faccio ovviamente dall'esterno perché non ho nulla a che fare con il mondo di Salvini. Guardi, con Salvini ma lei dove si sente? Nel centrodestra o nel centrosinistra? Io mi sento un esponente dell'area moderata e di centrodestra che in questo momento è impegnato a dare sicurezza a questo paese gestendo questo ministero e al tempo stesso a organizzare quest'area moderata che tenga però fuori quelli di estrema destra, cioè Salvini e Meloni. Senta, ministro Alfano, in Francia invece il centrodestra ha avuto un colpo di reni e con la vittoria di Fillon si è aperta una possibilità concreta di conquista dell'Eliseo. La sua domanda mi dà pienamente ragione in quel che dicevo prima, cioè è un centrodestra vero contro la Le Pen. Ma quindi Le Monde parla di una rivoluzione conservatrice. C'è un Fillon in Italia? C'è la speranza di trovarlo se faremo delle primarie escludendo Salvini e Meloni, che rappresentano il lepenismo. Con lo stesso schema francese ci può essere un'area moderata che avversaria della destra estrema di Meloni e Salvini è in competizione con la sinistra democratica, e su quello si potrebbero fare le primarie. Ma siccome sembra il ritratto di Berlusconi queste primarie. Il ritratto veramente è lo specchio infranto. Quale ritratto? Non le ha mai volute? No, eventualmente si cambiasse. Ma lui non le ha mai volute. Potrebbe volerle? Ma non credo proprio perché credo che sentendosi lui Superman consideri questa la criptonite. Senta, ministro Alfano, intanto la pressione migratoria non diminuisce malgrado l'inverno. L'Europa è assente, ha deciso di interrompere la trattativa per l'ingresso della Turchia in Europa. Secondo lei è un bene o un male l'interruzione di questa trattativa? Noi dobbiamo fare i conti con la realtà, e allora che la Turchia possa entrare oggi in Europa lo vedo un grande problema. Quindi è bene aver interrotto, ma al tempo stesso dobbiamo essere politici realisti e non possiamo rompere il patto con la Turchia sui profughi, perché ne sta tenendo dentro milioni e non è possibile che questi vengano verso l'Europa. Però questa interruzione della trattativa dice che... Ma quello è un accordo collaterale, perché i soldi gli sono stati dati Erdogan ha reagito minacciando di aprire le frontiere. Però quei 6 miliardi che gli abbiamo dato a questo punto nella geopolitica moderna, una volta c'era solo l'arma nucleare, nella geopolitica moderna anche la pressione sui profughi fa parte delle pressioni internazionali. Io credo che quel patto terrà, cioè, quello che riguarda i profughi, cioè, specificamente. Parliamo in concreto di quei 6 miliardi voluti dalla Merkel per la Turchia, che secondo lei servono e restano veri, la minaccia non è vera, secondo me terrà quell'accordo e la minaccia non si tradurrà in un invio di milioni di profughi. Senta cosa mi diceva Gheddafi proprio sull'entrata della Turchia in Europa. Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa, ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. Beh, parole che però fanno riflettere. Sono assolutamente convinto che il tema della Turchia non sia assolutamente maturo e che oggi l'Europa non è in grado di gestire una cosa di questo genere. Sono state lungimiranti. Lui non c'è più, ma le parole che aveva detto sono quelle che adottano molti leader europei oggi. Senta, mister Alfano, se vincesse il sì, il 5 dicembre sarebbe il giorno della nascita del Partito della Nazione, no? Più o meno. No. Noi abbiamo creato già adesso con questa campagna elettorale un'alleanza sociale, un'alleanza. La possiamo chiamare Partito della Nazione? No, io non credo, però nascerebbe un polo positivo. Lei in questo polo positivo si sente dentro? Ma io ci sono già dentro. Tenga conto che oggi un'infinità di categorie produttive, sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori, votano sì al referendum. E quindi se vincesse il sì, il ruolo del suo NCD si scioglierebbe in questo posto positivo? Noi abbiamo un compito determinante. Senza di noi non ci sarebbe stato tutto quello che c'è stato in questa legislatura. Per il futuro, un polo positivo dovrebbe coinvolgere tutte le aree politiche, ma ciascuno con la propria identità. Noi non siamo di sinistra, il PD faccia il mestiere del Partito Democratico. Noi vogliamo creare un'area popolare, moderata e liberale nella quale milioni di italiani che non stanno con la destra. Vabbè, come di Salvini Fiume, e Meloni, come Fiume, e vogliamo Francia, creare quel modello lì. Se vincesse il sì, Renzi potrebbe voler votare subito per capitalizzare il successo? Lo escludo. Perché? Perché credo che la sua responsabilità sarebbe quella di portare avanti le cose che abbiamo avviato, e anche perché ci sono una serie di... Arrivare al 2018, insomma, lei dice. Ma è naturale, ma mi scusi, c'è il vertice internazionale sui trattati di Roma, c'è il G7, sarebbe il leader più longevo tra quelli in campo, sarebbe assolutamente fuori dalla logica interrompere la legislatura. Senta, ministro Alfano, ma il voto degli italiani all'estero può essere decisivo secondo lei? Non lo so se sarà decisivo, ma sarà senz'altro importante. Sono quasi 4 milioni di italiani che amano l'Italia, e a me piace ricordare come tantissimi di loro abbiano raccolto fondi, e ne sono arrivati tanti per i nostri terremotati e per coloro i quali hanno subito i danni dal sisma. Senta, ministro Alfano, il fronte del no dice: il governo adesso gioca la carta della paura e del rischio dei crolli del mercato, le 8 banche che saltano, insomma c'è questo rischio? Il rischio di una instabilità è sotto gli occhi di tutti. La verità vera è che l'alternativa oggi non è tra questa riforma e una riforma più bella, ma tra questa riforma e tenerci quasi 1000 parlamentari, confusione tra Stato e Regioni e leggi da fare lentamente, eppure il CNEL che è inutile e costoso. Ma questa paura non è un po' propaganda, un po' forzata dalla propaganda? Ma guardi, è molto più propaganda quella di chi dice che non succede completamente nulla, perché nel momento in cui vince il no, dovesse vincere il no, e io credo che vincerà il sì, noi avremmo una situazione un po' stagnante e depressa, perché sarebbe chiaro che avremmo perso l'ultima chance per cambiare. Senta, l'ultima occasione per il cambiamento. Renzi però dice: se uno vota sì, cresce il PIL e va giù lo spread. Non è un po' troppo? Fin qui è successo così. Noi, spingendo su queste riforme, avevamo il segno meno davanti il PIL e oggi abbiamo il segno più. Avevamo le riforme bloccate e oggi abbiamo le riforme. Un po' di semi positivi li abbiamo piantati e un po' di frutti li abbiamo già raccolti, perché la disoccupazione è diminuita e l'occupazione è aumentata. E il Sud, per la prima volta, è cresciuto, ed è cresciuto più del nord. Vero. Senta, ma mi dice qual è la cosa migliore che lei ha fatto in questi 1000 giorni di governo? Sicurezza e solidarietà. Noi abbiamo gestito su 1000 giorni 533 giorni di grandi eventi. Expo più Giubileo fa 533 giorni di grandi eventi. Il Giubileo è cominciato pochi giorni dopo il Bataclan. C'era il terrore, l'abbiamo chiuso in bellezza. Il Papa ci ha ringraziato e noi gli siamo riconoscenti. Senta, è quello... Idem Expo, e abbiamo abbinato sicurezza a solidarietà, perché siamo stati un grande paese che non ha fatto morire nessuno, e adesso l'Europa deve regolare bene il conto con noi, perché deve deve adempiere agli impegni che ha assunto per i ricollocamenti dei migranti. Ci arriviamo. Senta, ministro, quello che si pente invece di non aver fatto? No, non ho particolari pentimenti. Ci avrà una cosa che avrebbe voluto fare, non ho particolari pentimenti. No, avrei voluto già approvata la mia legge che sto proponendo da mesi sulla sicurezza urbana, che dà più poteri ai magistrati, ai questori e ai sindaci, ma è arrivato il terremoto ad agosto, volevo fosse il primo provvedimento della riapertura. Tutto bene, ha fatto tutto bene. No, ho fatto una piccola cosa, un difettuccio. No, ma non è un problema di difetti, la cosa che avrei voluto fare e non ho ancora fatto è la legge sulla sicurezza urbana. Senta, e per esempio la carriera lampo di suo fratello alle poste, la imbarazza mio fratello, la sua carriera non è lampo alle poste, ma comincia da 20 anni di lavoro che ha fatto, e ancora qualcuno gli deve chiedere scusa per l'ingiusto procedimento penale a cui è stato sottoposto anni fa, che gli ha fatto danni alla carriera, per il quale è stato archiviato e nessuno gli ha chiesto scusa. E quindi il report di Milena Gabbanelli è stato ingiusto, secondo lei? Ha infierito perché era mio fratello, ovviamente fa notizia. Senta, ministro Alfano, dal 2014 il suo ministero è obbligato a fornire ogni anno i nomi di chi accoglie migranti, di quanto costano, eccetera. Però non lo fate, perché? Come no? Noi abbiamo oggi 2600 comuni che accolgono e 5400 comuni che non accolgono. Abbiamo avuto la forza di chiedere e ottenere la equa distribuzione regionale tra i migranti, ma quando si tratta di calare questa distribuzione regionale a livello comunale c'è il problema, perché non tutti accolgono. E siccome non esiste la misura forzosa ancora dell'accoglienza e noi abbiamo puntato tutto sulla volontarietà dell'accoglienza, ci sono comuni più generosi che pagano un conto più alto. Sì, gliela metto in un altro modo. Mi dice chi è materialmente che decide in quale comune mettere i migranti e quanti? E sono gli accordi tra i prefetti e i sindaci e noi vogliamo che i sindaci siano assolutamente sempre centrali e coinvolti, protagonisti della scelta. E con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani stiamo organizzando un sistema per fare un'equa distribuzione. Però Minoli, mi permetta su questo solo 3 secondi in più. Se un comune di 500 abitanti ne accogliesse uno di 1.200, uno di 10.020, avremmo con questa proporzione risolto il problema. E non riuscite a convincerli? No, perché ci sono 5.400 comuni a zero accoglienza e non faticherebbe nessuno se ci fosse questa proporzione. Senta, a proposito di questo, la nomina di Pietro Fassino coordinatore del piano per gli immigrati è una sorta di commissariamento? No, innanzitutto necessiterebbe il condizionale, perché sarebbe qualora ci fosse. Perché non c'è? No, appunto, e questa è, anche lei cade nella percezione della comunicazione. Ho letto un annuncio da parte del Presidente del Consiglio. No, il Presidente del Consiglio non l'ha mai annunciato, no, ci mancherebbe. Sono stato io a dire che l'avevo proposto al Presidente del Consiglio, ma fin qui non se ne è fatto nulla, vedremo nelle prossime settimane. Lei se lo augura? Io comunque credo che ci siano una serie di competenze. Ma di se augura o no? Sì, perché la integrazione nelle scuole, il problema del welfare, del sociale, il problema che riguarda il lavoro, sono tutte cose che rappresentano il lavoro di altri ministeri. Quindi, le navi della Marina Militare piuttosto che le politiche estere, serve uno che faccia sintesi. Senta, sui migranti, l'ultima parola di Bruxelles è la solidarietà flessibile. Cioè, noi ci siamo opposti alla presa in giro rigida travestita da flessibilità, da solidarietà flessibile. Dicendo che loro hanno preso l'impegno a prendersi 50.000 e più migranti di ricollocamento dai nostri centri e lo devono mantenere. Senta, negli ultimi mesi avete espulso oltre 100 fanatici. Abbiamo fatto oltre 200. Abbiamo fatto Piazza Pulita e solo la punta dell'iceberg. La cosa che mi chiedeva prima, di cosa sono orgoglioso, quando parlavo di sicurezza non mi riferivo solo a Jubilee Expo ma anche all'antiterrorismo, la prevenzione ha funzionato, attorno a noi sono scoppiate bombe. Ma dopo questi 200 fanatici? No, ancora siamo al lavoro e stiamo monitorando tutto quello che c'è da monitorare. Ma pensa che ce ne siano tanti? Penso che ci sia un virus che continua a germinare malattie di radicalizzazione che noi dobbiamo individuare e buttare fuori dal nostro paese. E la tecnica migliore per individuarlo qual è? È quella che ha funzionato fin qui, dottor Minoli, noi monitoriamo, intercettiamo, seguiamo i profili Facebook, vediamo i loro collegamenti, gli andiamo dietro finché non capiamo se questi sono a rischio. Se capiamo che sono a rischio, prima ancora che intervenga la magistratura, li cacciamo, ma mica un foglio di via, vuol dire che due poliziotti li portano in un altro paese e continente e lo consegnano alle autorità locali. Senta, e il contributo delle comunità islamiche è stato all'altezza delle aspettative o no? Noi siamo un paese in cui i cattolici concludono brillantemente il giubileo. europeo. Gli ebrei si sentono al sicuro e gli islamici hanno fatto denunce facendoci arrestare dei loro, dei loro confratelli. Diciamo, sì. Devono fare ancora di più, con gesti più eclatanti. Non basta essere non terroristi o aterroristi. No, però se vi hanno bisogna aiutato, essere antiterroristi. Se vi hanno ci hanno aiutato in alcune indagini e in alcuni arresti. Vogliamo facciano ancora di più. Senta, Tarak Ben Ammar l'altro giorno mi ha detto che in Francia il multiculturalismo è fallito ed è stato solo un'illusione. Lo pensa anche valido per noi? Se l'albero si riconosce dal frutto e il frutto sono le bombe e le stragi, credo che sia stato un problema grave. Invece da noi il modello italiano ha funzionato e noi non lo dobbiamo espiantare, questo modello, e lo dobbiamo coltivare. Io sono convinto che è fatto da umanità e rigore. La umanità nell'accogliere i migranti e il rigore nel dire con grande chiarezza che chi non accetta le nostre leggi e chi è pericoloso va cacciato prima ancora dell'intervento della magistratura. Senta, ministro Alfano, perché in Italia la tortura non è un reato? Innanzitutto ci sono una serie di fattispecie che puniscono già lo stesso comportamento pratico. Noi siamo a favore del reato di tortura a condizione che non incida in modo demagogico sulle forze di polizia, che da noi sono democratiche, hanno fatto sempre un lavoro straordinario, e a volte vedo da qualche ambiente il tentativo di utilizzare l'introduzione del reato di tortura per mettere ansia ai poliziotti. Ma lei è favorevole o contrario? Il reato di tortura certamente, tra l'altro è il recepimento di un obbligo europeo. Appunto. Ma per esempio, facciamo un esempio concreto, con Stefano Cucchi c'è stato un uso illegittimo della forza? Questo è un tema di indagine, i magistrati hanno assunto delle decisioni, quindi ci hanno lavorato, hanno fatto le perizie, hanno studiato tutta la pratica, ne sanno molto più di lei e di me, hanno preso le loro decisioni, non sto a mai dirlo. Dopo tanti anni da ministro, non so 6-7 quanti sono, fra la Guardia Sigilli e l'interno, lei come vede il suo futuro politico, pur essendo giovanissimi? Io lo vedo al lavoro per la creazione di un'area che rappresenti milioni di italiani, come hanno saputo fare in Francia quelli di Sarkozy, Juppé e Fillon. Insomma, viene fuori il nome del nuovo Fillon, si candida? No, io non mi candido, però voglio dare una mano d'aiuto ad aggregare quest'area. Milioni ci voterebbero, se troveremo la formula giusta e la chiave giusta ce la faremo. Se uno dice Fillon uguale Alfano, Alfano uguale Fillon, le piacerebbe? Diciamo, non gli invidio i 16 anni in più e mi tengo i 16 anni in meno, però... e quindi c'ho tempo, però l'area politica che i tre, non solo lui, perché ricordiamoci che un ex capo di Stato, un ex primo ministro e un altro ex primo ministro insieme ad altri giovani hanno avuto l'umiltà di sapersi confrontare io credo che questa sia la chiave giusta per ricostruire un'area moderata. Va bene, forse un pezzetto di Fillon l'abbiamo trovato. Senta, molti pensano che sia, parlavamo del suo futuro politico, che se vince sia il centrodestra che il centrosinistra, il suo futuro invece sarà in Sicilia come presidente della regione. Fantapolitica. Amo la Sicilia e la considero il posto più bello del mondo, nel senso che la gara per il posto più bello del mondo per me comincia dal secondo posto, perché il primo è già bloccato alla Sicilia. La amo profondamente, ma sono abituato a fare un mestiere alla volta. Il mestiere ma mio oggi è ministro dell'interno. Ma questo è un mestiere che le piacerebbe o no? No, guardi, non è una cosa che mi dica sì o no. No, ma guardi, in passato ho già detto di no, ma non perché non lo consideri importante. Però lei è importante. Giovane. Capita, ma non perché non lo consideri importante, ma perché ho fatto delle scelte che mi hanno fatto fare. In questo momento il mio principale impegno è fare il ministro dell'interno e l'altro questo no. Questo l'ho capito. Sì, sì. Non è nei miei piani, non è nei miei progetti, voglio costruire quest'area moderata. Quindi in futuro c'è più Fillon che la Sicilia, diciamo, per semplificare molto. voglio dare una mano a costruire un'area, anche perché sono convinto che lo spazio ci sia e tanti elettori che fanno parte della nostra borghesia, del nostro ceto medio, sono alla ricerca di questa formazione politica che fin qui non c'è. Fino sempre più vicino. Senta, le faccio un'ultima domanda. D'Alema ha detto che tra il ponte di Messina, l'IMU, l'articolo 18, se Berlusconi chiedesse i diritti d'autore a Renzi, lo rovinerebbe, d'accordo? Sono d'accordo sul fatto che abbiamo realizzato il programma del PDL. Cioè, io ero segretario del PDL appunto, quando sono entrato in Parlamento, e in questi 3 anni le leggi scritte con la mano destra non si contano più. Ecco, altre le faremo, sono anche opere, non solo leggi. Quindi diciamo che Renzi e Berlusconi sostanzialmente hanno 40 anni di differenza e basta. No, quello che dico è che se non c'ero io e non c'eravamo noi, rappresentanza di questo centrodestra, queste cose non sarebbero state d'accordo. Fatte. D'accordo, grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora, un titolo, Mario, per il faccia a faccia di Alfano? è ancora arrabbiato col cavaliere. Ancora arrabbiato. Arrabbiato sì. Col cavaliere. Un po' sì. Non passa. No. E tu, Pietrangelo? Sono troppo estremista per trovare un titolo. Sono troppo estremista. Io sono troppo. Tu non trovi titolo. Sono troppo estremista. Il tuo giornale esce senza titolo. In bianco. È una presa estremista. Di posizione. Cioè, capito? Alfano, due punti, bianco. Bianco. Vabbè, ok, una soluzione. Allora, che ci fai ascoltare oggi? Eccola. Sentirsi intorno quel profumo lì, come di fragola e di mandorle, mentre cammini sulle nuvole, in un bel cielo con ruggine, qualcuno cerca di confonderti, tu non sai più cosa inventare, a chi ti chiede che cos'hai, niente di niente tu risponderai. Allora? E allora oggi fragole, mandorle, ranuncoli, tutti per strada. C'era un furgone home, vi ricordate quelli home, parcheggiato già dalle prime luci dell'alba con gli operai che scaricavano la merce. Ed erano sottovesti, pizzi, stringipetto, calze, delizie varie che nell'aria si libravano come un sipario d'allegria. Ha telefonato Andrea Sperelli, ha voluto questa canzone di Giorgio Conte per Elena Muti con un messaggio: sei il mio brodo di giuggiole in mezzo a un prato di ranuncoli. Fantastico. Cosa inventare? A chi ti chiede che cos'hai? Niente di niente, tu risponderai. Mario, noi di che cosa parliamo nella tua bolla? C'è un sacco di roba inglese, ci interessa. Beh, l'economia americana va bene, visto? L'economia americana va molto bene. Allora, rivisto al rialzo in inglese. E quell'inglese è strana. Allora, perché i dati sui mutui che ieri avevamo annunciato, ricordi, sono positivi. Questo significa che il famoso take back control, cioè riprendiamoci il controllo, che era un po' lo slogan della Brexit, funziona come una specie di balsamo sulla fiducia del popolo inglese. Qualcuno dice sono come quelli che ballavano sul Titanic. Però non lo so, perché dicono che prima o poi arriverà l'ondata, perché non volevano la Brexit. Secondo me bisogna aspettare. Però i popoli hanno una saggezza profonda, teniamone conto. A volte anche sconsideratezza, però vediamo. Però stai dicendo che i risultati i dati, sono buoni. Io sono un cronista, quindi do i risultati. Io faccio l'interprete. I risultati sono buoni. No, io mi accontento di fare la cronaca sul taccuino. E i risultati sono buoni. Non sono buoni invece i dati della Royal Bank of Scotland, che è un gigante del credito europeo, perché sono stati pubblicati stamattina i dati sugli stress test, ed è corta. Questo significa che quel gigante, che già era stato salvato con soldi pubblici, dovrà ancora tagliare i costi e vendere asset. Quindi, come vedi, ci sono cose molto positive, cose invece un po' più negative. Vediamo che cosa succede. Io penso che comunque con Trump gli inglesi abbiano la via per l'exit. Comunque è la prima volta che fai solo il cronista senza le opinioni. Va bene, prendo atto. Salamino! La storia non si fa coi sé, il futuro però si può progettare. E così oggi, caro Giovanni, do equilibrio al mio salamino di ieri. Musica! Se vince il sì, Matteo Renzi stravince, ottiene il plebiscito, raduna i quadrunviri, ovvero Denis Verdini alias Emilio De Bono, quindi Marco Carrai, ovvero Cesare Maria De Vecchi, infine Maria Elena Boschi, senza il, però il pizzo elettrico di Italo Balbo. E quindi già lunedì, dopo il suo sì, farà la marcia del Nazareno, si presenta al cospetto di Giorgio Napolitano e rinnova l'antico patto maestà: vi porto l'Italia di Pontassieve. Se vince il no, invece, è un'altra storia. E però, come si dice, Giovanni, si chiude un portone, si apre un porticato. L'ha già detto ai nostri microfoni, Giovanni, no? Cosa ti ha detto Berlusconi? Che ti ha detto? Che lui è... favorevole, favorevole a, ad avere un Matteo, nuovo conduttore. Un nuovo conduttore, ecco, perché Berlusconi respinge i traditori alloggiati nella propria corte e si prende Matteo Renzi a medias, a Mediaset, come si chiama sta sigla qua. Allora, e quindi Renzi che fa? Corre a casa in tutta fretta perché c'è un palinsesto che l'aspetta. Allora, ragioniamo. Renzi ha l'imbarazzo della scelta. Può ovviamente prendersi la domenica in tandem con Barbara D'Urso, ma anche Mattino 5 se vuole. Può fare però... può fare anche il Grande Fratello, sia VIP che semi-VIP, e farsi forte così dei consigli di Daria Bignardi. Può fare pure il meteorino e così far piovere a Gallipoli quando Massimo D'Alema si trova a passare lì per fare una gita in barca. Può farsi dare amici e così, invece di stare con Luca Lotti alla Leopolda, se ne resta con Maria De Filippi e pure con Maurizio Costanzo, per così possono tirare tardi. È un ottimo conduttore, dice Berlusconi, e però... giusto equilibrio rispetto a Salamino di ieri, diciamo che vince il sì. E quindi vince il sì, Giovanni, e farà Renzi un palinsesto così a tutti, a tutti. E cosa farà della TV? Farà questo. Dopotutto, domani è un altro giorno. Sarà un unico porta a porta. E se invece avesse delle idee nuove e facesse un palinsesto nuovo, nuovo? Infatti ci mise possibile. A capo dall'orto, si è visto. Vabbè, bolla Mario. Sempre tu a difenderli, eh? Sempre. Allora. Dai, questi sono bravi. Anche l'altro è bravo. Vabbè, i miei dialoghi con la regia sulla musica, l'unica cosa che veramente conta. A proposito, tu l'hai evocato, The Donald. Trump, che succede? Molto interessante secondo me. Fa il suo lavoro, cioè il negoziatore, è volato in Indiana con Mike Pence. È divertentissimo, ha convinto... Chi è Mike Pence? Il vicepresidente. Ah, ecco, non mi ricordavo. Cosa molto divertente, è riuscito a convincere quelli della Carrier a fare un po' una mezza retromarcia. Quelli che fanno i condizionatori. Sì. Mi piace sto duetto. No, tu che sei un cronista, devi specificare. Sì. Che fanno i condizionatori d'aria, sistemi di riscaldamento e così via, li ha convinti a dimezzare i piani per la delocalizzazione in Messico. Salva 1000 posti di lavoro, restano negli Stati Uniti. Dopo Ford, che aveva lo stesso progettino di spostare uno stabilimento per i mezzi leggeri sempre in Messico, allora insomma si comincia a vedere. L'uomo concreto. Sì, il negoziatore, l'uomo concreto, l'uomo pro business. Diciamo l'imprenditore. L'imprenditore, appunto, che ha questa idea di conservare, secondo me giusta, i posti di lavoro negli Stati Uniti. Ha preso quei voti, dovrà dargli qualcosa in cambio. Deve rispettare quello che ha promesso in campagna elettorale. Va bene, facciamo un bel canzoniere. Tutti i voti è fatto nel dovuto scrutinio. Elettori iscritti 515, votanti 512, sì 512, no 0. Hai capito? È il sogno di tutti questi. 800 24 00 24, numero verde, sms 349 238 6666, l'sms, un aiutino siciliano, so, per favore. Io non lo so, giuro. Dai, non lo sai? Sì. No, ho capito. Dai, no, questo è il sogno di ogni... l'incubo. Il sogno di chi comanda. Certo, di chi vince. Il sogno di chi comanda, poi a un certo punto non comanda più. Va bene. Insomma, sto aiutino? Sto aiutino, senza aiutino. Senza aiutino, vi prego. Già che indovinate, siamo, già che favore, siamo 800 nervosi. 800 24 00 24, numero verde. 349 238 6666 l'SMS, viabilità. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. vi presenta... Mix 24. Smettete di guardare ai complotti, guardate la realtà. Chi è bravo la cambia, chi non è bravo grida ai complotti. Si è voluto cucire un abito su misura a costo di spaccare in due il paese. E già questo sarebbe gravissimo, perché la Costituzione riguarda tutti. Abolirei la Costituzione sulla quale discutiamo ogni 5 minuti. C'era bisogno di cambiarla? No. I 12 principi sono intoccabili. C'è chi la vuole cambiare, chi no, chi l'abolirebbe, chi la considera intoccabile. È la Costituzione italiana, la cui modifica è da mesi al centro del dibattito politico del nostro paese. 139 articoli. I primi 12 mettono nero su bianco i principi fondamentali. Democrazia, lavoro, sovranità popolare, uguaglianza, solidarietà. Poi due parti che regolano diritti e doveri da un lato, organizzazione dello Stato dall'altro. Con la caduta del fascismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli elettori italiani il 2 giugno del 1946 decidono in un referendum che l'Italia sarà una repubblica ed eleggono i rappresentanti dell'Assemblea Costituente. L'Assemblea scelse subito, appena insediata, di dar vita a una commissione che si chiamò la Commissione dei 75 dal numero dei suoi componenti, che aveva proprio il compito di elaborare quegli articoli che poi sarebbero stati discussi naturalmente in assemblea plenaria. Pur divisi da storia e ideologia, i partiti che formano l'Assemblea Costituente il 22 dicembre del 47 approvano col 90% dei voti il nuovo testo. Il 1 gennaio del 48 entra in vigore la Costituzione italiana. Qui alla Costituzione, naturalmente, la Costituzione italiana, dedicata alla puntata della storia di oggi. Come sempre, dopo il giornale radio, abbiamo un vincitore del canzoniere, Ilaria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora. Allora? Allora, il Gattopardo di Tommaso di Lampedusa. Giusto. Bravissimo. In realtà? In realtà è tratto dal magnifico film di Luchino, sì, Visconti, ed è Paolo Poppa che annuncia la vittoria di sì, anche se poi scopriamo che c'è qualcuno che ha votato. No, naturalmente, ma se è candidata rischia tutto su no, Luchino Visconti. Non sono molto brava in letteratura, ma sono una forte cinestra, quindi. Che fa di bello, bene, signora Ilaria? Faccio l'architetto. L'architetto, oh, fantastica. A casa? Da casa o in ufficio? Sto andando all'aeroporto di Fiumicino perché curo la sicurezza per un'azienda. Anche Va bene, allora auguri, buon lavoro. Grazie anche a lei e a voi. C'è una bolla ancora, Mario? Una storia familiare che secondo me è molto interessante. Sentiamo però prima un po'. Vabbè. Un allora? Super classico, super anziano. Però, e no, la storia di Benetton, avete visto tutti che sì, Alessandro, beh, c'è stata una rottura. Alessandro ha lasciato, sì, una cosa traumatica. Ma anche perché segnala lo scontro fra i due fratelli maggiori. Sì, e tutti si chiedono che cosa c'è dietro, ovviamente. E dietro ci sono dietro sempre numeri, 280 milioni di perdite in 5 anni. Ma non credo che sia solo quello. No, certo. Credo che, no, che beh, ci sia chiaro proprio l'esigenza di trovare un riassetto definitivo per il gruppo. Poi sai come l'anima è sempre una cosa che conta più dei fatti duri della contabilità. Soprattutto in quelle grandi famiglie. Esatto. Nel momento del passaggio di generazioni. Ecco, adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, ottobre 2016. È essenziale una rivalutazione dei farmaci assunti dopo una frattura. Una donna su due ed un uomo su quattro si fratturano dopo 50 anni e queste fratture, spesso determinate da osteoporosi, hanno una maggiore incidenza di infarto, ictus e cancro della mammella messi insieme, per dire quanto è un fenomeno importante. E allora, in genere, chi si frattura è in terapia e spesso è, come si dice, in politerapia, assume cioè un mucchio di farmaci. Allora è importante andare a rivedere le prescrizioni, eventualmente inappropriate, durante l'ospedalizzazione conseguente a una frattura, per vedere di ridurre la mortalità e anche il rischio di cadute che banalmente l'assunzione dei farmaci comporta. L'editoriale di cui vi parlo riporta uno studio dove sono stati analizzati i farmaci assunti dai fratturati 4 mesi prima e 4 mesi dopo l'evento frattura. Bene, l'85% ancora continuava a prendere farmaci potenzialmente capaci di provocare fratture, in parte perché se qualcuno li interrompeva, altri iniziavano, farmaci che non prendevano prima ma potenzialmente pericolosi. Tipicamente si vedeva questo fenomeno con i sedativi, ma anche con gli antidepressivi e gli antipsicotici, mentre invece non si vedeva con i cortisonici, a dire come che i medici curanti avessero una minor disponibilità a ripensare all'utilizzo di psicotropi, mentre invece con i farmaci non psicotropi fossero più restrittivi. È evidente che invece sono proprio i farmaci psicotropi, benzodiazepine, ipnotici non benzodiazepinici e antidepressivi e antipsicotici che sono quelli più capaci di creare cadute e fratture. Quindi il messaggio qual è? È un discorso che vale sempre. C'è bisogno sempre di un regista unico, soprattutto se uno è andato da più di un medico che ha prescritto farmaci diversi. C'è bisogno di un regista che questi farmaci diversi li mette insieme, li armonizza e eventualmente toglie quelli non necessari. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ci presenta oggi? Oggi una canzone per chi viaggia tra l'indifferenza della metropoli col cuore impegnato in acrobazie, In cerca di te, cantata da Mariangela Melato. Me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò.